Siamo con Paolo Arca dell'Associazione per Villa Panfili per presentare la mostra Saluti da Villa Panfili alla Biblioteca Villino Corsini a Villa Panfili dal 21 al 29 aprile. Paolo, benvenuto. Ciao, benvenuto, ben trovato e buongiorno a tutti. Allora, ci racconti un po' di quest'evento? Sì, nasce in seguito, diciamo, l'azione che l'Associazione per Villa Panfili sta svolgendo all'interno della villa, no? Un'azione di tutela e di difesa che parte da un amore profondo che ci lega a questo luogo che poi frequentiamo quotidianamente. Qualche anno fa la scoperta di una ricca collezione di cartoline che sono state realizzate dalle Poste Italiane, non solo da loro, agli inizi del Novecento, nel 1900. Cartoline che poi abbiamo trovato in vendita su eBay, molte delle quali viaggiate. Per curiosità ne abbiamo acquistata qualcuna e siamo rimasti veramente a bocca aperta. Innanzitutto per la bellezza di queste cartoline che sono normalmente in bianco e nero, seppiato, oppure colorate anche ingenuamente se vogliamo, ma soprattutto dai messaggi che portano, dalla scrittura, una scrittura di 120 anni fa, che è, diciamo, ricca e affascinante come le immagini che sono impresse su queste cartoline. Paolo, leggo di 80 cartoline esposte. Sono state tutte praticamente reperite online? Online, appunto, sono appunto circoscritte a questo tema, cioè a Villa Panfili, e provengono da diverse nazioni, perché dobbiamo immaginare questi visitatori che rimanevano affascinati dalla città nel suo complesso e per di più da questa villa che allora era comunque privata, non era una villa pubblica. Ed era la tenuta extraurbana dei Panfili. Palazzo Doria Panfili è al centro, a ridosso di Piazza Venezia, cioè esattamente a Piazza del Collegio Romano, e in quel tempo ci trovavamo ancora fuori della città di Roma, cioè fuori di Porta San Pancrazio, fuori di Porta Cavalleggeri. Per cui questo posto affascinante, con delle viste stupende, ad esempio sul Vaticano, sul cupolone, molte delle fotografie, la stessa che abbiamo scelto come immagine, diciamo, di copertina e di presentazione di questa mostra, è stata scattata proprio da Palazzo Doria Panfili, dalla terrazza che si affaccia su via Aurelia Antica e che troneggia sopra il cupolone e la città che gli sorgeva intorno. Quindi cartoline che venivano acquistate e che poi venivano spedite in Germania, in Romania, in Bulgaria, in Francia, in Inghilterra. Da qui queste calligrafie e addirittura queste lingue differenti che parlano soltanto comunque di una cosa, della bellezza di Roma e della bellezza di Villa Panfili. Sì. Paolo, ci racconti anche brevemente il percorso dalla tenuta della famiglia Panfili al parco pubblico? Tappa, diciamo, per questa città. Anche perché è il parco più grande della città. Parco più grande, sono 184 ettari, poi c'è la sua sorella Villada che ne dovrebbe avere 160 e poi un'ottantina ne dovrebbe contare Villa Borghese. Sono queste le tre ville più grandi, ma fra grandi e piccole all'interno di Roma ce ne sono una quarantina di ville storiche, tutte quante poi legate alle famiglie più importanti poi di quel periodo, cioè le famiglie dalle quali, no, provengono i papi della maggior parte, diciamo, della Chiesa, perché soltanto negli ultimi anni abbiamo cominciato ad avere dei papi che provengono dall'estero, altrimenti erano tutti quanti italiani e soprattutto appartenenti alle più importanti famiglie romane. Sì. Passo più importante dell'acquisizione della villa è appunto negli anni 60, quando la prima parte, che è la parte ovest, cioè quella che è a ridosso di Via della Nocetta, viene acquisita, e e solo successivamente la parte est. E come ci ritroviamo queste due parti? La villa ovviamente inizialmente era unita, ma negli anni 60, nel momento in cui celebrano le Olimpiadi qui a Roma, si decide di fare questa strada per congiungere più velocemente il Foro Italico all'Eur e si infligge, diciamo, una ferita profonda alla villa, con una via che doveva essere provvisoria, peraltro, cioè questa ferita l'avrebbero dovuta ricucire successivamente, cosa che non è mai successa perché purtroppo in questa città, in questa nazione, non c'è niente di più definitivo di ciò che è provvisorio. La parte est passa solo successivamente, la gemma, diciamo, di tutta questa operazione, che è il Casino del Bel Respiro, cioè la Palazzina dell'Aldiardi, è, diciamo, l'acquisizione più recente, perché la famiglia Vanfili inizialmente era intenzionata a cederlo all'ambasciata di Belgio, ed erano in corso le trattative. Una grande, diciamo, azione, iniziativa di Italia Nostra costrinse, fra virgolette, il governo italiano ad esercitare il suo diritto di prelazione. Tutto questo passando per la prima grande raccolta di fondi su scala nazionale, che vide raccolte, per quell'epoca era una cifra piuttosto elevata, una cinquantina di milioni di lire con cui sostenere l'acquisizione. Per questo poi il Casino del Bel Respiro si è riunito, anche se questo, diciamo, non è esatto completamente, alle due parti della villa. Non è esatto perché periodo, all'inizio degli anni 90, c'è, diciamo, l'intenzione di Craxi, si diffonde questa notizia, presidente e segretario del Partito Socialista Bettino Craxi pose gli occhi su questo luogo, cioè sul Casino del Bel Respiro, decidendo di farlo diventare la residenza del Presidente del Consiglio. Palazzo Chigi è la sede della Presidenza del Consiglio, non è la casa del Presidente del Consiglio, ancorché ci siano degli appartamenti all'interno. E quindi, diciamo, cominciarono degli strani lavori. Noi ci costituiamo proprio in quel periodo, cioè un gruppo di persone, di frequentatori assidui della villa, comincia a raccogliere delle firme chiedendo, diciamo, trasparenza alle intenzioni della Presidenza del Consiglio, del Comune di Roma, eccetera, e crea una grande sollevazione popolare. Raccogliemo 30.000 firme in pochissimo tempo, nel quartiere, ma anche nei quartieri limitrofi e nel resto della città. Villa Vanfili, come le altre ville, viene percepita come un patrimonio Certo. molto forte di questa città, anche perché poi alla fine rappresentano le ville la maggior parte del verde pubblico. E quindi a maggior ragione il sentimento di volerle mantenere aperte, pubbliche proprie. Tangentopoli non era ancora scoppiata, per cui fu anche un'iniziativa piuttosto coraggiosa da un certo punto di vista, e comunque portò ai suoi frutti, portò al fatto che la Presidenza del Consiglio fece marcia indietro e addirittura fu firmato un protocollo d'intesa per cui la palazzina dell'Algardi, cioè il Casino del Bel Respiro, fosse restituito ai romani, fosse aperto alla, no? Alle visite, alla pubblica fruizione. Purtroppo successivamente a una firma di un protocollo d'intesa fra il governo Ciampi e l'allora sindaco Rutelli ci fu una marcia indietro del governo successivo, che era il governo che fu il governo Tremonti, scusa, Berlusconi Tremonti, e la palazzina è rimasta in mano alla Presidenza del Consiglio, che in questi anni ha permesso sporadiche visite, una volta al mese, di sabato, un paio d'ore. Altrettanto sporadiche sono state le visite dei capi di Stato stranieri, perché è entrata a far parte diciamo, del patrimonio della Presidenza del Consiglio, cioè del patrimonio delle strutture in uso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. In realtà ospita sporadicamente, veramente 5-6 volte l'anno, delle visite di capi Stato stranieri o delle delegazioni o di iniziative. Per cui noi, in forma diversa, continuiamo, attraverso le interrogazioni parlamentari, per esempio, a chiedere non la restituzione, quantomeno la riapertura a delle visite guidate più continue, e più frequenti, in maniera tale che diciamo, la vista di quella terrazza che appare sulla locandina che dà, no? Che dà il nome a Saluti da Villa Pamphilj, cioè a questa mostra, la possano fruire Certo. tutti quanti i cittadini, i romani, gli stranieri. Paolo, un'ultima cosa. Villa Pamphilj è salita alla cronaca in questi ultimi tempi per la questione degli edifici al suo interno, sia pregiati che abusivi e successivi, che sono stati chiusi, molti sono stati restaurati e poi non sono stati mai aperti, sono diventati, insomma, zone di degrado non fruibili. Quale tipo di battaglia voi state facendo in questo senso? Noi siamo stati testimoni dei restauri di questi edifici, dei restauri peraltro in molti casi malfatti, nonostante all'interno dei fondi del Grande Giubileo del 2000 fossero stati stanziati 52 miliardi di lire per gli interventi su Villa Pamphilj, 27 solo per l'intubamento dell'Olimpica, cioè per ricucire quella ferita. Dopo i restauri, tutti quanti i casali, ma anche le aree, sono state abbandonate a se stesse, attraverso poi un depotenziamento del servizio giardini che in parte le doveva curare e anche attraverso una dismissione di responsabilità da parte della sovrintendenza capitolina. Tutto questo ha favorito il degrado per il non utilizzo e anche, come tu dici, le occupazioni abusive. Siamo arrivati alla fine ad avere a contare almeno 120 persone che la notte entravano nella villa e si stabilivano all'interno di una serie di casali, conducendo una vita, ci mancherebbe, al limite, diciamo, della sopravvivenza, Sì, perché sì. non, parliamo di persone sbandate. La questione è che è stato tradito soprattutto un'indicazione che era uscita nel momento dei restauri del Giubileo, cioè la realizzazione di un piano programma di utilizzo, cioè uno studio sulla destinazione d'uso dei vari casali e delle aree perché fossero valorizzati, perché fossero fruibili dai cittadini e perché rappresentassero, dal punto di vista sociale, diciamo, una possibilità di incontro e di crescita culturale, sociale e ambientale, perché poi la villa, diciamo, ha tutte queste sfaccettature. Questi piani, programmi di utilizzo, uno dei più grandi sostenitori era Antonio Cederna, che è il padre dell'ambientalismo italiano, fondatore di Italia Nostra. Noi abbiamo avuto il privilegio di conoscerlo proprio in quel periodo. Quelle giunte, le giunte Rutelli, che avrebbero dovuto elaborare questi piani, non lo fecero minimamente. E la situazione è andata avanti così, lasciando degradare il tutto. Noi, ecco, questo stiamo portando avanti con le amministrazioni successive. Abbiamo provato a sottoporla a quella precedente, quando c'era il sindaco Marino, lo abbiamo fatto più di recente con questa amministrazione, in particolare negli incontri con l'assessore all'ambiente Pinuccia Montanari, perché solo questa può essere la salvezza di Villa Pamphilj, cioè la parcellizzazione, l'affidamento estemporaneo di aree, di casali. Adesso le abbiamo viste affidare agli amici degli amici, come suol dirsi. Sì. Abbiamo visto canoni, cioè bandi con canoni Irrisori. irrisori, cioè i casali di Villa Pamphilj così preziosi vengono affidati per 1.900 euro al mese, tutto questo per non superare una soglia che è quella dei bandi di 24.000 euro, in maniera tale da poterli affidare in maniera più facile, meno controllata. Sì. Casali che invece, dove sono stati utilizzati, dove vengono utilizzati, rendono tantissimo. Cioè, noi abbiamo valutato che, un punto di ristoro presente da anni a Villa Pamphilj, con, le iniziative serali, i matrimoni, i battesimi, le feste di compleanno, eccetera, è in grado di produrre 1,5 milioni di euro l'anno. Il Comune di Roma chiede 23.000 e rotti euro. È chiaro che poi non abbiamo i fondi per rilanciare il recupero della villa che, ripeto, in questi 18 anni, ultimi 20 anni, è stata abbandonata a se stessa e nel pieno degrado. Sì. Allora Paolo, salutandoci, ricordiamo intanto l'appuntamento con la mostra Saluti da Villa Pamphilj alla Biblioteca Villino Corsini dal 21 al 29 aprile e poi ci lasci anche i riferimenti web per conoscere le attività dell'associazione. Sì, diciamo che ormai, e questo è stato importante per il rilancio delle iniziative dell'associazione, sono i social network, quindi cercando su Facebook Associazione per Villa Pamphilj si possono seguire tutte, diciamo, le attività, ma soprattutto il quotidiano della villa, che è stupefacente. Cioè, ogni giorno c'è qualche cosa da segnalare, nel bene e nel male, purtroppo molto più spesso nel male, però anche, diciamo, nel bene, nel senso il fascino degli animali, degli alberi, delle strutture, dell'ambiente. C'è stato un successo estremo, abbiamo scattato un paio di centinaia di fotografie quando la neve ha coperto interamente Roma e ha creato a Villa Pamphilj un paesaggio da fiaba, una fiaba al centro di Roma. Questa è la cosa particolare. Spesso pensiamo che i luoghi magici siano nascosti chissà dove, invece ce l'abbiamo esattamente sotto casa. A Paolo, un abbraccio e a presto. presto e grazie.